Buongiorno e benvenuti a Un giorno alla volta, il devozionale quotidiano sulla parola di Dio curato dalla Chiesa Logos a Firenze. Questa è la riflessione di oggi. Questo è Matteo capitolo 15 versetto 19. Dal cuore infatti provengono i malvagi pensieri, gli omicidi, gli adulteri, le fornicazioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Dalle mie parti c'è un detto molto famoso che si potrebbe tradurre come volti vediamo, cuori non sappiamo. Questo è uno di quei proverbi che col tempo sono diventati parte della saggezza popolare. In effetti, come esseri umani possiamo vedere il volto di qualcuno, ma mai conoscere veramente il suo cuore, perché noi non siamo Dio. Tuttavia Gesù in questo passo ci sfida con un'idea che sembra mettere queste parole in prospettiva. Prima o poi le persone finiscono per rivelarci ciò che hanno nel cuore, e non necessariamente attraverso i loro volti, ma è certo che sarà evidente nelle loro azioni. Cerchiamo di comprendere meglio questo passo. Il contesto di Matteo 15, versetto 19, è un momento in cui Gesù affronta l'ipocrisia dei farisei e degli scribi. Essi rimproveravano Gesù perché i suoi discepoli non seguivano le tradizioni cerimoniali, come lavarsi le mani prima di mangiare. Gesù risponde sottolineando che non sono le cose esterne a contaminare una persona, ma ciò che esce dal suo cuore. Il punto centrale di questo passo è chiaro: il vero problema dell'essere umano non è esterno, ma interno. Gesù non minimizza le leggi cerimoniali, ma indica che queste non possono trasformare il cuore. Ciò che realmente separa l'uomo da Dio non è l'impurità esterna, ma la corruzione interna. Nel versetto 19 Gesù elenca esempi di come il cuore produca peccato: malvagi pensieri, omicidi, adulteri, furti, bestemmie. Questo riflette la profondità della nostra condizione caduta e la nostra necessità di una trasformazione dall'interno. E perché Gesù insegna questo? Per smascherare l'ipocrisia religiosa. I farisei erano più concentrati sull'osservare rituali esterni che sulla purezza del cuore. Gesù sottolinea che la vera santità inizia dall'interno, non dalle apparenze esteriori. Lo fa anche per rivelare la profondità del peccato umano. Questo insegnamento si collega a tutta la scrittura, che mostra come il cuore umano sia incline al male fin dalla caduta, come dice Geremia capitolo 17, versetto 9. Gesù smaschera l'idea che le nostre azioni esterne possano giustificare la nostra condizione spirituale. Lo insegna anche per indicare la necessità del Vangelo. Se il problema sta nel cuore ed è quindi interno, la soluzione non può essere esterna. Gesù sta preparando la via per comprendere la sua opera redentrice. Solo Lui può dare un cuore nuovo. Ecco tre verità bibliche che possiamo estrarre da questo passo. Numero 1. Il peccato nasce dal cuore. Questo passo ci ricorda che le nostre azioni esterne sono un riflesso del nostro interiore. Non basta controllare il comportamento, abbiamo bisogno di un cambiamento profondo nella nostra natura. Numero 2. La religione esterna non può salvarci. Gesù confronta il vuoto delle tradizioni umane che non affrontano il vero problema del peccato. Invece di concentrarti sull'osservare regole, coltiva una relazione autentica con Dio. Medita nella sua parola e lascia che lo Spirito Santo operi nel tuo cuore. Detto in altro modo, pulisci il vaso dall'interno prima per poi pulire l'esterno. Verità numero 3. Cristo è la nostra unica speranza. Solo Gesù può pulire e rinnovare il cuore. La soluzione al problema del peccato non è riformare le nostre azioni, perché sono esterne, ma ricevere un cuore nuovo mediante la fede in Cristo. Riposa nella grazia di Dio, sapendo che non dipende dai tuoi meriti, ma dall'opera redentrice di Cristo. Gesù ci insegna che non possiamo ignorare lo stato del nostro cuore. Il peccato non è solo un atto esterno, è il frutto di una radice contaminata. Ma in Cristo c'è speranza. Egli non solo perdona i nostri peccati, ma trasforma la nostra natura dal profondo. Ecco una frase sulla quale potremmo meditare. Ciò che esce dalla mia vita rivela ciò che abita nel mio cuore. Quindi che cosa sto permettendo che Dio trasformi in me oggi? Preghiamo. Signore, grazie per insegnarci che il nostro problema più grande non è esterno, ma interno. Perdona i peccati che sgorgano dal mio cuore e purificalo. Insegnami a vivere nell'umiltà, dipendendo dalla tua grazia per trasformarmi ogni giorno. Rendimi consapevole del mio bisogno di un cuore nuovo e aiutami a vivere nella libertà e nella purezza che solo tu puoi dare. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi leggiamo Genesi capitolo 15, Matteo 15, Neemia 5 e Atti 15. Un giorno alla volta è una produzione liberamente tradotta e adattata in italiano. Se desideri approfondire, ricevere ulteriori risorse o metterti in contatto con noi, cercaci online come Chiesa Evangelica Logos. A domani!